DRM on the road. Flashback. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Che bella che è sta canzone. Io la vedo con una giornata un po' come questa qua, no? In una serata magari un po' uggiosa davanti a un camino con una bella bibita accanto, la tua o il tuo compagno accanto, davvero molto bella. Il classico a conclusione di una prima mezz'ora insieme appartiene a Bonnie Taylor, che bella, poi lei è molto brava. Total Eclipse of the Heart, l'eclisse totale del cuore. E quando si parla d'amore, di romanticismo, questa era una settimana importante perché c'era San Valentino, c'era anche Sanremo, non so che c'entra, però vabbè, tra loro

on me. I never saw me falling hard. Got me like I knew it. No, no, not, not, not, not me. Girl, you took away my guard. So I put my hands up. Put my hands up. Dai che se state buoni là, fra non molto ritorno con una notizia che riguarda il bellissimo Eros Ramazzotti, anche se non più giovane, però vi regalerò una canzone sua e poi una notizia che lo riguarda molto da vicino. On the road. Di pace, fare quello che mi va, non avere niente intorno, solo una candela accesa e guardarti in fondo agli occhi e con gli occhi attraversarti piano. Voglio spegnere il rumore, disarmare la mia mente e lasciare fuori il mondo. Fino quasi a non sentirlo e non cercare sempre un senso a tutto quello che facciamo. E andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare, su, su, su nel sole, giù, giù, fino in fondo al cuore. Qualche cosa che non serve poi davvero è respirare il tuo respiro fino a sentirmi vivo dentro. E andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare, su, su, su nel sole, giù, giù senza più dolore. Dolore. strano, è strano il fatto che all'intervista non parlava una parola di italiano, Raquel del Rosario. Però la canzone, o perché l'avrei imparata a memoria, che è la cosa più credibile, o che so, abbia imparato solo queste parole in italiano. Che poi nelle interviste lei rispondeva in spagnolo. Raquel del Rosario assieme a Luca Barbarossa, una canzone davvero straordinaria, dicevamo in questi giorni sicuramente il tormentone di questo ultimo periodo con questo su, giù, giù, giù. Ebbene, bene. Allora, attenzione, non vi preoccupate se avete anche voi problemi e siete ossessionate dalle bucce d'arancia, non quelle vere, proprio sai, la cellulite, eccetera, eccetera, eccetera, un po' come le belle, famose e soprattutto perennemente a dieta modelle e attrici. Ebbene, showgirl, io aggiungerei VIP di ogni genere, per dire, che so, da Manuela Arcuri, Britney Spears, passando per insospettabili come Jessica Alba, il consiglio anticellulite c'è, esiste, è indossare i jeans. Infatti arrivano quelli cosmetici che rilasciano gradatamente sulla pelle una soluzione a base di caffeina e scina e vitamina E in grado di combattere le adiposità dando ai glutei la forma perfetta. Si chiamano Yves La Roche, credo che di aver pronunciato bene il nome di questi jeans, e sono l'ultima grande invenzione nella Impari Jeans Cosmetico, caricato dal complesso cosmetologico attivo e concentrato di goccioline di coacervato che sfrutta la particolare ricettività della pelle durante tutta la giornata, e proprio grazie ai normali movimenti che si fanno abitualmente aiuta a combattere gli accumuli di adiposità localizzata e favorisce il fisiologico drenaggio dei liquidi in eccesso, e quindi dovreste avere una linea perfetta dopo qualche periodo. Fatto sta che dovremmo prendere più di un paio, perché mica puoi mettere sempre gli stessi, no? Dico, devi cambiarli, e allora va bene, vai a come, non so quanto costano. Addirittura, una volta esaurita l'efficacia della sostanza attiva di cui è intriso il tessuto, durano 28 giorni, lavaggi compresi. I jeans si possono ricaricare nel guardaroba delle celebrità, spazio quindi alla denim salvalinea che... all'efficacia cosmetica aggiunge anche un design anatomico e forma a mela e tagli stondati per valorizzare il corpo femminile, glutei verso l'alto, insomma, silhouette slanciata per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le fasce di importanza. Non parlano di prezzo, non so quanto potrebbero costare, però dico, eventualmente più in là ci informeremo, vedremo un po', cercheremo di scoprire a cosa si va incontro, se ci sono degli effetti collaterali, quanto costano, soprattutto se sono dei prezzi abbordabili a tutti. Però fatto sta che sta uscendo questo jeans che toglie la buccia d'arancia. Beyond the moon. Night Like This, 15:26 sulla radio che si sente e si vede, CRMP Radio si sente e si vede, perché ci sentite, potete vederci in streaming crmpradio.it. Questo è l'indirizzo da andare a cliccare, là poi arriverà tutto così semplice, perché una volta entrate dentro alla home page si aprirà ufficialmente anche la video chat. Possiamo anche vederci e salutarci, infatti lo faccio di tanto in tanto, perché dobbiamo salutare anche gli amici che ci sentono da oltre stretto e sono davvero in tanti. LDRA lay back, black on black. Diamonds on my neck and my wrist matching that. Black mask, black mag, brown bag. Drop that off, nigga, shoot your black ass. I'm a magnet, the money, the paper, I'm where it's at. And they're attracted to me, they treat me like PFC. I'm a PIMP, your chick just chose me. I got so much swag, is that why you mad? Control your hatred, nothing good to say, don't say shit. Keep walking, quit talking, keep it moving. We can keep the club jumping till daylight. From New York to LA through the Bay, right? Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like that. Harder girlies just love my swag. From my kicks to the way I fix my hat. I'm back, fresh like some new J's. Brody got next, NBA 2K, I'm 2K. Shaded with some ladies, repping my city. What's LA, baby? What's LA made me this way? Too rude, stay fresh, homie, get paid. Hey, never broke and never bummy. I'm from where it's forever sunny. And I feel like man, I feel like money. They attracted to me. Oh, yeah. They come around like honey. They come around like honey. 'Cause I'm fly like a bee. Oh, yeah. Man, I got 'em all buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing. Like, dinner. The world buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing. Like, new cat with an old school feel. Only new artist with an old school deal. Taught the game by Steve Lobel. So we always win, don't receive no L's. New girls act like they know me so well. But I shows no love and be like, oh well. When my album drops, sure as hell gon' sell. Stack cash and laugh like L-O-L. Man, I feel like money. Man, I feel like money. They're attracted to me. Oh, yeah. They come around like honey. They come around like honey. 'Cause I fly like a bee. Oh, yeah. Man, I got them all buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing, buzzing. Oh yeah, 50 Cent, Buzzin', che disco, molto pimpante, allegro, adatto all'ora del pomeriggio, quando abbiamo fatto le 15:30, probabilmente tanti di voi stanno scegliendo questa fascia oraria per il meritato caffè. Intanto io faccio due minutini di pausa, poi devo iniziare a fare i saluti. A dopo! On the road. Si parlava di te l'altra sera. Si diceva che non canti più quelle strofe di frontiera, belle come la tua gioventù. Ma se il cuore ha un'ala spezzata, devi solo curarla, perché non è ancora la fermata, altri viaggi aspettano te. dall'istinto che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare, anche se sembreranno più lunghe che mai certe dure salite del cuore. C'è che ognuno di noi può resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole. Quando prima ci esamina e poi solo dopo ce la spiega la lezione più dura per noi, ma ci insegna che ogni bufera può strappare un bel fiore, però non l'intera primavera, non può raderla al suolo, non può. Che hai di non cedere mai, e da questo lo sai che riparte il cammino. Ognuno di noi ha la sua strada da fare, prendi un respiro ma poi tu non smettere di camminare. Si comincia a morire nell'attimo in cui cala il fuoco di ogni passione. Ognuno di noi ha il suo pezzo di strada da fare, segui il passo di un sogno che hai, chi lo sa dove può arrivare, e chi lo sa. Resistere, sai, aggrappato ad un raggio di sole, il sole sopra di noi. È bravo, è bello e poi soprattutto è intelligente perché ti fa Juve. Eros Ramazzotti, a proposito di Eros, stavo leggendo questa notizia che riguarda, lo riguarda molto da vicino, riguarda la sua vita personale. Noi ci facciamo di tanto in tanto gli affari degli altri, quindi siamo qua anche per questo. E volevo dirvi che sarà padre per la seconda volta a 47 anni, anche se ufficialmente ne ha di 47 di anni, però sembra un ragazzino. Lo hanno visto, si è visto aggirare per le vie di Milano in compagnia della sua nuova bellissima fidanzata, la giovanissima Marika Pellegrinelli, di 22 anni. E la cosa bella, lui che ha riscoperto la sua seconda giovinezza accanto a Marika, Marika che a luglio gli regalerà un figlio. La modella che ha superato il terzo mese di gravidanza però non rinuncia alla linea, sempre in palestra. Vabbè, poi con la linea che si ritrova non credo sarà difficile subito dopo riacquistarla. Poi tenersi in forma per loro è una cosa naturale. E quindi Eros per la seconda volta papà arriverà a luglio, ancora non si sa sia un maschietto o una femminuccia, anche perché poi comincerà il totonome, no? Come lo chiamerà? Come la chiamerà? La prima credo sia Aurora, no? Quella assieme a Michelle Hutzinger, credo si chiami Aurora. Anche perché lui ha dedicato la canzone alla sua figlia. Vedremo un po' questo o questa come si chiamerà. Lo scopriremo intorno a luglio. Sarà piena estate, noi saremo in vacanza. Ci occuperemo sempre degli affari loro quando saremo in vacanza. Vabbè, saremo ancora a fare radio, penso proprio di sì. boy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Saxo Beat. Che tempo, anche se dovremmo farci l'abitudine, perché a detta degli esperti sarà tutta una settimana fredda, una settimana così piovosa con l'abbassamento di temperature, quindi lo dico sempre, speriamo che vada via subito questo freddo, non ne possiamo più. Noi piace il caldo, noi siamo solari, noi piace l'estate, il calore, la spiaggia e il mare. Ho saputo che fa freddo anche in alta montagna grazie ad Antonella che di tanto in tanto sento e mi tiene informato sulle condizioni meteo in alta quota. Va bene, siamo al giro di boa, dobbiamo fermarci, segnale orario e poi torneremo ancora insieme a parlare di bella musica. Voi state con noi, questo è CRM Happy Radio, siete all'interno di On The Road con Robin Antoni anche per oggi insieme sino alle 17. CRM On The Road Flashback. In her face, the mirror of your dreams. storia infinita, Never in the Story, dal film, aspetta, qual era? La storia infinita, per la... quando c'era il cane, quello alla, con le grandi orecchie che volava. Limahl, un altro classico che siamo andati a ripescare indietro nel tempo, al giro di Boa, 16:10, CRM Happy Radio, un attimo di pausa e poi ancora insieme. Sono accorto che bisognava decidere, finché un bel giorno la carta d'identità non mi ha rivelato la verità. Non è il momento, non è il momento di scherzare, qui c'è un casino di cose da fare. Ho superato la metà del mio viaggio e mi devo sbrigare, che c'è il mio secondo tempo e non voglio perderlo, perché io un po' mi sento come all'inizio dello show, però è il mio secondo tempo e io voglio godermelo, perché io spero tanto che sia male, o perlomeno buttare quello che non vale, non vale niente o non vale almeno un'emozione, se non vale mi devo sbrigare, che c'è il mio secondo tempo e non voglio perderlo, perché io un po' mi sento come all'inizio dello show, però è il mio secondo da buttare che sembravano importanti e invece non mi servono, quante occasioni perse da recuperare, quante carte da giocare, che c'è il mio secondo tempo e non voglio perderlo, perché io un po' mi sento come all'inizio dello show, però è il mio secondo tempo e io voglio godermelo, perché io spero tanto che sia splendido. Lui riesce sempre a fare le canzoni ruffiane, no? Quelle che poi vanno bene, per forza di cause maggiore devi suonare in radio, vuoi perché la canzone è bella, vuoi perché è tra le più richieste. Il mio secondo tempo, questo è per l'appunto il secondo tempo che sta per iniziare, anzi è iniziato già da un bel po', di On The Road. Infatti siamo al giro di Boa, siamo nella seconda ora e Robby D'Antoni che vi tiene compagnia anche questa giornata, questo martedì 22 di febbraio. Vi dicevo prima, preparate i dopo sci, giacconi, guanti, sciarpe e cappellini, perché si prospettano una settimana meteorologicamente parlando davvero brutta, per non dire altro. Intanto devo ringraziare Eros che mi ha suggerito il sito, che è quello il più attendibile, quello che il sottoscritto va a guardare, ma soprattutto mi è stato consigliato quando abbiamo fatto la targa Florio, l'ultima nell'edizione italiana Rally, quindi non questa che è passata ma quella ancora prima, Luca Rossetti, che è uno che uno dei campioni che milita nel campionato italiano rally, e diceva che loro, la loro squadra, proprio fanno affidamento per quanto riguarda il meteo al meteo.it, quindi andate sicura, botta sicura al meteo.it, poi là andate a cliccare sulla vostra città e vi dà il tempo, ed è tra i più attendibili, credo quasi al 96-97% di credibilità, ci azzeccano sempre. E c'è, allora, oggi con la pioggia, effettivamente un po' c'è stata, poi c'è mercoledì pioggia, giovedì c'è sole e pioggia, venerdì sole e un po' nuvolo, sabato neve, cioè addirittura c'è la neve a bassa quota sabato. Poi domenica dovrebbe ritornare il bel tempo, sole però con qualche leggera nuvolosità, poi lunedì ritornerà la pioggia, martedì ancora pioggia, cioè veramente saranno una decina di giorni, questi ultimi di febbraio e i primi di marzo, credo davvero brutti, brutto brutto. Il tempo è brutto brutto. Voi intanto, se ne avete voglia, ce lo fate sapere inviando dei messaggi tramite Facebook al nostro profilo CRM Radio. Potete inviarli tramite SMS, c'è una chiamata quando entrate nel nostro sito crmpiradio.it, o eventualmente 335 5637251, potete chiamarci direttamente 923 289, anticipate dallo 0921, ci fate sapere com'è il tempo dalle vostre parti e noi naturalmente lo gireremo ai nostri radio ascoltatori. Che bella che è questa canzone di Vasco, ancora una bella poesia da parte sua. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già, il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Che basta più forte, la vita che va e non va, al diavolo non si vende, si regala, con l'anima che si pente, metà e metà, con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole, io sono ancora qua. Io sono ancora qua. Eh già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Eh già, riprenditi la vita che vuoi tu, io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua. Eh già, sai che dobbiamo fare gli auguri? Oggi 22 febbraio. Gli auguri di buon compleanno, 80 anni. No, non è una persona, no. È l'Amerigo Vespucci che oggi compie ben 80 anni. Infatti era la lontana domenica del 22 febbraio del 1931. Il cielo del Golfo di Napoli minacciava pioggia. Si sapeva che non ci sarebbe stata nessuna madrina di casa Savoia e che la cerimonia sarebbe avvenuta in tono minore, poiché il regime fascista, stampa e opinione pubblica erano concentrati sull'impresa del ministro dell'aeronautica Italo Balbo, che il 15 gennaio al comando di una squadriglia di 12 idrovolanti era riuscito ad ammarare nella baia di Rio de Janeiro. Bene, alle 9.30 nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, il varo della nave scuola Amerigo Vespucci, che oggi è il vanto della nostra marina, il primo nella storia del cantiere durante il quale il battesimo dello spumante non era stato affidato a un membro della casa regnante, casa Savoia. Il compito fu assegnato, pensate, ad Elena Cerio o Cerio, figlia ventenne del capitano di vascello Oscar Cerio o Cerio, che dir si voglia. Da quel giorno sono trascorsi ben 80 anni. In questi giorni si stanno, oggi seguivo proprio una trasmissione in TV, stanno facendo un po' il look alla nave, la più bella, la più vecchia della nostra marina, però rimane sempre la più bella, credo anche nell'ambito mondiale. Sta rifacendo il trucco proprio in attesa di tornare in acqua per un nuovo corso. Da quel giorno quindi di 80 anni fa il veliero fu impostato il 12 maggio del 30 ed ultimato in soli 10 mesi. Un migliaio di persone partecipò all'allestimento del Vespucci, perché in questo caso è forse una delle poche volte che si chiama alla maschile, non è una nave ma è l'Amerigo Vespucci. Il Vespucci. Tra maestri d'ascia, maestri d'opera, ferrai, maestri aggiustatori, tornieri, fonditori, staffatori, ce n'erano davvero di tutti i mestieri. Venne scelta per ricordare l'anniversario della morte del navigatore Amerigo Vespucci, che è avvenuto nel 22 febbraio del 1522, poi fu scelta questa data e quindi fu varata e la nave prese il largo. E oggi diciamo che è il vanto della nostra marina, quindi auguri, auguri all'Amerigo Vespucci e a tutti quelli che ci hanno lavorato, tutti quelli che ne prendono parte in ogni qualvolta che esce fuori anche questa perona per i corsi. Lo so di aver sbagliato e so cosa dirai. Lo so di aver sbagliato e sono qui, ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio. Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so. Non so resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità, io la voglio. Posso farne a meno del tuo amore,

ho avuto questi piccoli problemi, però chi dice questo? I giornalisti, che me lo dicano in faccia. E no, che sono scappati tutti. Avrei voluto me lo dicessero in faccia. Sono scappati. Poi si parla del suo futuro, sempre di Patty Bravo. Tre quarti dei politici dice dovrebbero andare via e la sono d'accordo con lei. Invece di grattarsi la pancia, ci vuole un leader con gli attributi. Poi ci sarà un tour che partirà nell'aprile, credo. Poi vi faccio sapere meglio. Ecco, il tour inizierà il 21 marzo. C'è un tour che prenderà, come al solito, di mira un po' tutte le località italiane. Lei ha detto che, a proposito di Roberto Vecchione, della sua canzone la farà sua nel tour che andrà a presentare a partire dal 21 di marzo. La canzone scelta per Sanremo è questa qua, molto più sdolcinata. Lei dice avrei scelto un'altra, però è troppo rock, era troppo rock per Sanremo, e abbiamo optato per questa qua, Il vento alle rose. Senti che bussa la porta, sarà il solito scocciatore della domenica, ma no, tu non ti muovere, che stai benissimo su di me. Minuti d'amore e sentire la televisione di questa economia, mi vuoi o vuoi un altro caffè? Dicevi non si può e poi sei qui da me. Giorno il cielo si aprirà e mi racconterà che tu sei un'altra illusione, ma fino allora fammi vivere così, nell'incoscienza ormai di chi confonde il vento con le rose. Forse meglio di no, sarà l'ennesima voglia di nuovo di questa vita mia tra noi, un letto ed un caffè, chissà domani se sarà possibile. Confonde il sesso con l'amore. Ma fino allora fammi vivere così, nell'incoscienza ormai di confondo il vento con le rose. Senti chi bussa la porta. Sai che la vedrei molto al maschile questa canzone, soprattutto cantata da Vasco Rossi. Non so, questa la sento proprio cantata dalla timbrica di Vasco Rossi. Va bene, Il vento e le rose, Patty Bravo. Siamo quasi in dirittura di arrivo, 10 minuti, poi dovremo chiudere questo ennesimo appuntamento. Oggi il martedì, il 22 di febbraio, è il 2011, tanto per ricordarlo, giusto che siamo in diretta, lo ricordiamo. Poi, che dire, andremo incontro a questa settimana freddissima. Mannaggia, mi ero quasi ripreso, sai che sento ancora pizzicare il naso? Oioioioi, che bello questo disco, che pimpante. Sai, è quel disco che suonato a quest'ora è un'arma a doppio taglio, perché ti verrebbe voglia di ricominciare da capo, a dire ciao, benvenuti, buon inizio programma, invece siamo in conclusione. Va bene, va bene, va bene. Stavo leggendo e soprattutto vedendo la foto di Janet Jackson, che era ad un passo dal clamoroso incidente del 2004. Non so se ricordate, quando durante una performance con Justin Timberlake è uscita di scena. Non so se era ad una partita di Super Bowl. Janet Jackson si è presentata ad un concerto nella capitale di Taiwan, a Taipei, con un busto di pelle super sexy che evidenzia il seno prosperoso. Ma poco mancava il ripetersi del fuori programma hot. Beh, lo fanno, d'altronde lo fanno apposta, perché nel bene o nel male comunque basta che si parli di me. On the road. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro il caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. Sai che oltre il corso di dizione dovremmo fare anche un corso aggiornato di lingue, perché ormai il fatto che siamo su internet c'è tutto il mondo che ci segue, quindi dovremmo fare i saluti in tutte le lingue possibili e immaginabili, dal francese all'inglese al tedesco. Va bene, intanto lo faccio in italiano, che è quello universale. Noi ci risentiremo domani, perché On The Road è appena finito. Da Roby D'Antoni il più cordiale delle buone serate, ancora una buona continuazione sulle nostre frequenze, sui 101.4. Continuate a seguirci su crmpiradio.it. A tal proposito devo salutare quanti hanno scelto di seguirci e di vederci in streaming. Grazie di tutto, non mi rimane altro da fare che mandarvi un grosso bacio e rinnovare l'appuntamento a domani. Bye bye.